Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Regola numero uno, non farti mai beccare. Mi insegneremo a ingannare, recitare delle parti. Chi è Stoker? Bram Stoker? Uno scrittore, ha scritto Dracula, perché? Era una spia, faceva il doppio gioco. I vostri superiori forse non sanno di questa conversazione, mi sbaglio? La verità è che alla fine della storia è solo un lavoro. Le affidiamo un incarico che richiederà tutte le sue capacità particolari. Ha fatto soldi con attività allo scherzo. Tu lo prelevi dall'hotel, lo droghi, lo metti in una macchina al posto di guida e gli vai addosso a 80 all'ora con un camion. È un piacere riaverti tra noi. È quello che facciamo, non quello che siamo. Quello che siamo dipende da noi. Qualche giorno fa parlammo, ma proprio per pura facezza, per puro spirito del riaffiorare di ricordi lontani, dell'epopea di 007. L'ultimo film ci ha fatto ricordare che in realtà ci sono due o tre generazioni di esseri umani che sono nati nel culto differenziato a seconda dei decenni che hanno praticato nella loro fanciullezza, adolescenza, età matura, da una serie di stimoli legati alla contemporaneità che stanno vivendo, e l'aspetto tenebroso, misterioso, occulto, parallelo che percorreva l'agente segreto 007. E in certi anni di guerra fredda fatta di spie russe, negli anni successivi fatta di tensioni legate al Medio Oriente, negli anni ancora successivi fatta di gadget elettronici e di guerre che si muovevano nel cyberspazio. Ora, tutto questo pensavamo che fosse relegato al nostro aspetto più fantastico, più onirico, ma in realtà ci siamo accorti, guardando le agenzie di stampa, osservando i giornali, che no, esiste una realtà concreta, percepibile, concretizzabile in un desiderio di partecipare a master, corsi universitari, aree di qualificazione per fare gli agenti segreti. E questo è di cui vorrei parlare questa mattina. Innanzitutto esiste una reale possibilità, chance professionale nel fare l'agente segreto. E fare l'agente segreto, che noi pensavamo nella nostra arcaica e sommaria cultura nel campo, che a un certo punto ti fermasse un signore con degli occhiali scuri e con una valigetta e dicesse: sei stato prescelto, aprisse una porticina misteriosa in una parete apparentemente senza nessuna apertura, entrassimo improvvisamente in un mondo di cui nemmeno immaginavamo e sospettavamo l'esistenza. La nostra vita si sarebbe divisa nel gestire questo importante segreto. Ma come fa a essere segreto un agente segreto se va a fare un master in agente segreto, se studia, se gli viene dato un attestato, e tutti sanno che lui farà appunto l'agente segreto? Naturalmente io la domanda l'ho posta in termini molto banali, ma perché voglio solleticare l'interesse del pubblico. Esiste veramente un desiderio, una reale attitudine a voler entrare in questo mondo interessante, utilissimo? Non demonizzo assolutamente l'idea dell'intelligence. L'intelligence è uno dei punti focali su cui si basa la libertà del cittadino e del paese. Qualcuno deve pur fare un lavoro che normalmente non è certo fatto alla luce del sole, ma quali possono essere degli sbocchi professionali, in cosa ci si può specializzare, e chi è soprattutto che mette le persone al corrente di quelle che sono le ultime tecnologie, come vedevamo ogni volta che iniziava l'avventura di 007, veniva portato in una stanza e il suo collega gli apriva le valigette misteriose attraverso le quali avrebbe potuto sconfiggere i propri nemici. 80024 0024. I nostri fallimenti sono noti, i nostri successi mai. È il motto dell'azienda. Tu salvi il mondo e vieni condotto in un polveroso sotterraneo a Langley. Ti danno dei biscotti e una gazzosa e ti mostrano una medaglia. Non puoi neanche portartela a casa. Quindi non è per soldi, sesso o fama. Allora perché? Io dico che ci troviamo qui, in questa stanza, perché noi crediamo. Crediamo nel bene e nel male e scegliamo il bene. Noi crediamo nella giustizia e nell'ingiustizia e scegliamo la giustizia. La nostra è una causa giusta. I nostri nemici sono dappertutto, ovunque, intorno a noi. C'è roba da far paura in giro. 800 24 0024, questo è Al Pacino, che è docente nel film La regola del sospetto, e dà le sue direttive. Giusto, un agente segreto deve sapere che i suoi successi nessuno li saprà, e i suoi insuccessi, ahimè, saranno sanciti molto probabilmente in molti casi dalla sua scomparsa, la sua cancellazione dal numero degli esseri umani. Professor Paolo Dell'Olmo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Paolo Dell'Olmo è direttore del Master Data Intelligence e Strategie Decisionali presso la Facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Ci riporti alla realtà rispetto a questa che può essere una visione romanzata, piena di fascino. Chi è che oggi si affaccia a un Master di Intelligence? Da quale molle spinto? Soprattutto cosa va a fare dopo? Dunque, vengono sostanzialmente da due ambienti. Uno è legato all'intelligence aziendale, per il governo dei processi aziendali, diciamo per il buon management. Però dagli ultimi anni si è affiancato una motivazione più legata a un altro asset delle aziende, che in qualche modo è la sicurezza. Sicurezza dei dati, sicurezza delle informazioni, della conoscenza aziendale in generale. Alcune delle persone tipicamente seguono un profilo, come dire, di dirigente. Altre persone, presumibilmente, per quello che sappiamo noi, possono seguire anche un profilo più legato a aspetti investigativi. Nell'organigramma di un'azienda, questo tipo di specializzazione cosa porta a fare? Capo delle risorse umane? Responsabile della sicurezza? Dunque, in realtà le aziende, quelle diciamo più avanti, hanno un settore specifico che riguarda la gestione della sicurezza, la loro vulnerabilità, la prevenzione e azione anche di controllo. Non tutte le aziende hanno questa visione, alcune hanno risorse interne, altre si rivolgono a istituti esterni, anche a investigatori privati ad esempio. Quali sono, diciamo, i campi su cui dove lo spionaggio industriale, il controllo delle risorse interne e della fedeltà all'azienda, i rischi di sabotaggio? Perché esiste un campo molto specifico, il campo appunto dell'informatica, ma in questa mattina vorrei tenermi più sull'aspetto tradizionale, perché lì si apre poi tutto un altro genere di specializzazione. A cosa serve in un'azienda un esperto in intelligence? Anche per un'attività, allora, diciamo, di osservazione delle altre aziende, cioè può fare anche realmente, concretamente la spia? Sì, ma certamente, perché ad esempio un'azienda adesso che per motivi di competitività si deve per forza aprire a mercati internazionali, deve in qualche modo interagire con aziende che sono localizzate altrove, con cui non ha contatti diretti, che magari appartengono a un'altra cultura, a un'altra lingua, pensiamo in Asia, in Medio Oriente e così via. E allora a quel punto acquisire informazioni che sono sparpagliate su un'azienda con cui uno vuole entrare in contatto e auspica che sia un'azienda etica, ma non lo sa, e con cui vuole trattare affari importanti, chiaramente richiede che le persone prima di procedere abbiano sicurezza e confidenza del fatto che le informazioni che gli arrivano siano vere. E questo qui, diciamo, non può essere fatto semplicemente andando all'equivalente della Camera di Commercio del posto X, perché non dipende solo da quello. No, bisogna entrare in un campo più delicato, occorrono strumenti anche di infiltraggio, diciamo, in ambiente nemico, detto fra virgolette. Assolutamente. Quindi, diciamo, il personaggio chiave ha sicuramente più di una identità. Ok, uno è quello ufficiale per l'azienda, poi è floricoltore, veterinario e così via, avrà diversi profili Facebook, va bene? E a seconda del caso cerca di acquisire. Okay? Ma non si entra in una zona un po' limacciosa ai limiti della legalità, o anche questo è ammesso? Questo è sicuramente... Un agente di polizia può far tutto, ma io se volessi assumere altre identità forse dovrei stare un po' attento. Lo chiedo come domanda, non... No, in realtà questo avviene, e le persone che si devono muovere in questo settore, oltre alle capacità tecniche, dovrebbero avere anche le competenze, diciamo, legali su quello che si può fare e quello che non si può fare. Muoversi sapientemente, diciamo, nella zona di confine, questo forse. Sì, è la zona di confine. D'altra parte, c'è una motivazione di mercato. La motivazione di mercato è tale che crea pressione, e la pressione poi implica, induce comportamenti e esigenze tecniche dall'altro lato. Ovviamente noi ci preoccupiamo più di fornire la strumentazione tecnica, va bene, la cintura con tutti gli attrezzi e così via. Ma esiste davvero un'attrezzatura tecnica come 007 ancora? Dunque, esiste un'attrezzatura tecnica e per noi che siamo università è un'attrezzatura tecnica di modelli, di competenze. Devo dire pure la verità, non banalissima da acquisire, cioè la parte malvagia che ad esempio lavora sulla rete sa come fare le cose ma non sa perché funzionano. Noi in qualche modo diamo anche una parte diciamo di valore aggiunto complessiva e di maggiore consapevolezza sulle cose. Beh, non a caso però diciamo il master è collegato alla facoltà di ingegneria, non è la facoltà di lettere e filosofia, ci sarà un motivo. Sì, per essere precisi è ingegneria dell'informazione, informatica e statistica. Una facoltà nuova che mette insieme anche la parte finale di analisi dei dati. Perché quello che diciamo uno magari non si immagina è che passare da informazioni frammentate, sparse un po' dovunque, a rispondere a una domanda e a fare veramente intelligence, la parte di strumenti che c'è, ed è comunque molto articolata e sofisticata, non è comunque sufficiente. Bisogna saperli usare, sapere i limiti di applicabilità e non arrivare ovviamente a conclusioni sbagliate. Perché è l'altro secondo rischio a cui ci si espone. Fermiamoci un istante, mettiamo in campo un'altra competenza, un altro esempio, che ho detto che ero rimasto sorpreso, ma interessato al fatto che non fossero casi isolati. C'è un altro master in intelligence che è fatto presso l'Università della Calabria, se l'è inventato, costruito, immaginato, è stato il promotore, adesso me lo dirà bene esattamente lui, Mario Caligiuri, che è professore di pedagogia della comunicazione all'Università della Calabria. Caligiuri, buongiorno. Buona giornata a voi e a tutti i ragazzi. Ci conosciamo da anni, quindi noi ci diamo del tu, non dobbiamo nascondere, tanto siamo fra agenti segreti, non potremmo nascondere nulla. Sei ancora assessore alla cultura della Regione Calabria? Sì, quindi anche un ruolo istituzionale. Ecco, mi spieghi l'altro lato rispetto a quello che è stato appena detto, l'intelligence intesa come strumento professionale nell'ambito dell'azienda, però esiste anche una necessità di adeguamento professionale di chi già fa questo mestiere e forse anche un po' questo il senso del primo master che fu fatto in Calabria e penso che ancora continui. L'idea è proprio questa, quella di considerare la cultura dell'intelligence come una cultura fondamentale per il paese, perché analizzare, raccogliere, utilizzare le informazioni è strategico per ogni organizzazione, sia pubblica che privata, tanto più per lo Stato, che oggi deve confrontarsi in un'ottica globale quanto mai difficile da comprendere e che si modifica molto rapidamente. Per cui chi conosce riesce a prevedere e quindi a provvedere. E l'idea che noi abbiamo avanzato che è un po' diversa rispetto a quella del collega del professor Dall'Olmo, che ovviamente ha un taglio più orientato sulla business intelligence, anche se poi i poli si toccano, perché gli interessi delle grandi multinazionali sono interessi statali a tutto tondo. Quindi è evidente che in un quadro di questo tipo diffondere la cultura dell'intelligence, tu giustamente dicevi, è un corso collocato nell'ambito di un percorso di studi in ingegneria diverso dalla facoltà di lettere. Noi lo facciamo, l'abbiamo organizzato nella facoltà di lettere perché per noi è fondamentale diffondere la cultura dell'intelligence, perché bisogna superare un divario culturale che nel nostro paese è molto radicato in base a delle teorie politiche, ideologiche collegate col concetto del doppio stato, e che invece bisogna comprendere che oggi più che mai c'è bisogno di intelligence per poter vivere in maniera adeguata a questo tempo. Sì, esiste, diciamo, io ho visto l'altro giorno un video su YouTube di un collega, poi era Luca Telese, che è andato a parlare all'università, gli studenti l'hanno cacciato a malo modo, tu sei una spia della polizia. Ci sarà anche stato, non voglio dire che in alcune epoche del nostro paese non ci siano state delle zone molto grigie, ma non si può associare l'idea di intelligence sempre all'idea del servizio deviato, perché sennò altrimenti si annullerebbe una parte importante della sicurezza dello Stato, o sbaglio? No, infatti è vero esattamente l'opposto, e sono i sistemi democratici che hanno bisogno di intelligence, di strutture di informazione che riescono a raccogliere nell'interesse nazionale e utilizzare nell'interesse nazionale. Tu hai opportunamente iniziato questa mattina questa trasmissione con la bellissima Lectio Magistralis di Al Pacino, che dice proprio questo, cioè che i successi dell'intelligence non li conosce nessuno, si conoscono gli insuccessi. E come ha scritto opportunamente il morale metodo dell'intelligence il professore Francesco Sidoti, è proprio il fine ultimo dell'intelligence è quello di risparmiare il sacrificio di vite umane. Quindi questo è capire che proprio sono gli stati democratici che hanno bisogno di più intelligence. Per far capire il senso, già mi stanno arrivando gli sms, stai facendo parlare le spie, Nicoletti, anche tu sei una spia, non mi toglierò magari questa onta di dosso di essere anch'io un fiancheggiatore dei servizi questa mattina. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, salve, io volevo portare... Lei ha studiato da spia, lei? No, non propriamente, ho studiato da informatico qualche quindicina di anni fa all'Università di Salerno. E poi pian piano mi sono avvicinato, come diceva il suo primo ospite, al mondo della sicurezza informatica. Ecco, ci faccia capire allora come in concreto funziona in questo campo. Che, come diceva il professore, se da un lato può essere visto meramente come la gestione degli strumenti informatici che proteggono tutto il patrimonio informativo di un'azienda. Non è soltanto quello, chiaramente. Non è soltanto quello, anche se le basti pensare, cito il nome di uno scandalo per tutti, lo scandalo Telecom, che era gestito da uomini che veniva dai servizi e anche dall'ambiente militare. Quindi si trattano dati sensibili, comunque oggi attraverso le interconnessioni di un'azienda, ma anche di qualsiasi privato cittadino, non è che passano soltanto dati del tutto neutri, passano le corrispondenze, passano le informazioni, passano le profilature degli esseri umani. Quindi è un campo che comincia a essere più delicato, non è il semplice tecnico che si occupa di reti o dell'hardware e del software, no, ci vuole un passo in più, bisogna capire se tutto questo flusso, soprattutto in un'azienda, non può essere nocivo alla qualità di vita dell'azienda. Sentiamo Alberto. Alberto. Buongiorno, mi chiamo Alberto da Bari. Io sono un recuperatore di credito. Recupero crediti? Sì, per un'azienda multinazionale, e non le nascondo che noi abbiamo fatto dei veri e propri corsi da spy. Però nel senso, noi non giriamo con l'Aston Martin o con la Walter, certo. O abbiamo fregato in vetro resina per sostenere i martini, ma semplicemente... Nemmeno la pillola di cianuro per autoeliminarvi. Esatto, da autoeliminarci, e non giriamo in tight, però noi siamo dei semplici padri di famiglia, però non le nascondo che noi abbiamo dovuto prendere il cartellino di licenza di pubblica sicurezza a Questura di Roma, per avere accesso a dei dati sensibili. Ecco, mi faccio degli esempi, questo mi interessa. Qual è il passo avanti rispetto a una persona che normalmente si occupa di recupero crediti? Ma normalmente la persona va, guarda dov'è, eccetera. Noi allora, sfermiamoci un attimo, mi dicono... Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Tu devi valutare e scartare quasi tutto, senza guardare o ragionare. Senza ragionare. Come se respirassi. Tu respiri, vero? Porta sempre con te sigarette e un accendino. Rompono il ghiaccio. Stiamo dando istruzioni di come si comporta un agente. Questo è Spy Game, Robert Redford, che ci spiega che in effetti l'essenza della persona che si muove nell'ambito dell'intelligence è che è sempre in servizio, deve sempre avere una mappatura aggiornata, attenta, di cui deve tenere in memoria i dati della situazione che è attorno. Stiamo parlando dell'intelligence intesa come disciplina universitaria, come necessità primaria per uno Stato democratico, ma allo stesso tempo come interessante aggiornamento o via professionale nell'ambito di chi si muove nell'ambito delle aziende. Parlavamo con Alberto, che lavora in una società di recupero crediti e che a un certo punto ha deciso di cambiare il passo. Ecco, quali sono stati gli strumenti che ha dovuto acquisire? Sì, eccoci qua. niente, gli strumenti non sono poi tutti questi strumenti. Si è comprato una pistola subito? No, no, assolutamente, non abbiamo il porto d'armi. Gli strumenti sono soprattutto psicologici. A parte gli strumenti informatici, cioè noi abbiamo accesso a dei dati sensibili che possono valutare se il debitore ha o non ha terreni fabbricati o quant'altro intestato, ma soprattutto è a livello psicologico. Noi facciamo corsi di PNL, programmazione neurolinguistica, come gestualità del corpo. Noi quando abbiamo di fronte un debitore, in 3 minuti dobbiamo capire se lui sarà solvibile o meno. Se c'è o se quindi, ci fa, detto in parole molto semplici. Sì, sì. Poi dai dati che abbiamo si vede subito se noi lavoriamo nell'ambito di prestiti personali, carte revolving, quelle slot machine tascabili, le chiamo io, che in certi casi proprio rovinano degli utenti. Mi sono accorto che però in molti casi i dati che sono forniti alla banca in alcuni casi sono insufficienti, addirittura mendaci. Quindi noi dobbiamo ricostruire tutta l'iter del debitore per poi andare. Anche a perché basta prendere i giornalini che vengono lasciati omaggio di Free Press nella metropolitana, la pubblicità più evidente è quella come rinverginarsi uno stato di cattivo pagatore o di insolvente o di protestato, quindi sì, evidentemente sì. C'è qualcuno che lavora contro di voi, fa parte del mercato, ma è così. Questo non l'ho mai valutato e non mi sono mai accorto, però può essere che sì, ci sia qualcuno che aiuta queste persone a ricrearsi un'identità più o meno vera. Il caso di un debitore che non coincideva nulla con la sua persona. Io non riesco a capire come siano riusciti a dargli un prestito personale. Ad esempio, per capire. Ma oddio, abitava, invece di abitare per dire a Foggia, abitava a Bari, a Secondigliano, invece di chiamarsi Mario Rossi si chiamava Pinco Pallino, e incredibilmente la banca aveva erogato un prestito personale a una persona inesistente. Quindi era stato talmente bravo che era un'altra identità. Allora, sì, Paolo Dell'Olmo, direttore del Master Data Intelligence e Strategie Decisionali presso la Facoltà Ingegneria, ricordo, della Sapienza di Roma. Da questo giro di telefonate, intanto, abbiamo lambito alcuni degli ambiti che fanno parte delle discipline che si insegnano nel suo master? Ma sì, sicuramente. Intanto è emerso il rapporto tra agente e decisore, cioè entrambi sono decisori, entrambi hanno delle informazioni, entrambi cercano di reagire anche in funzione a opportunità, valutazioni di rischi, costi, benefici, eccetera, che comunque entrano anche in questo caso nella sfera psicologica del decisore. Uno dei grossi problemi che abbiamo noi è quello di cercare di mappare anche matematicamente il comportamento del decisore con meno informazioni, ovviamente, perché le informazioni di cui possiamo disporre noi sono magari informazioni oggettive come quelle che diceva l'ascoltatore prima, qualche dato anagrafico, qualche dato di grado del lavoro, le amicizie, eccetera, e non sono sufficienti in realtà. Quindi c'è sempre un gap tra quello che riusciamo a estrarre noi come conoscenza da dati con tutte le tecniche più sofisticate e quello che realmente pensano dall'altra parte. Ma è vero, professore, che molte volte esiste un'infinità di fonti che voi chiamate le fonti aperte, che sono quelle che chiunque potrebbe, avendone interesse, strumenti, consultare, che non sempre bisogna andare a cercare cose che sono segretamente nascoste? Purtroppo sì, nel senso purtroppo, perché come si sa c'è la parte del web nascosta, la parte del deep web, che viene stimata circa 100 volte più grande del web accessibile, che non è raggiungibile con un motore di ricerca e che purtroppo viene utilizzata per attività criminali. E in questa parte del web si può accedere conoscendo l'indirizzo fisico, perché i contenuti non sono indicizzati, e uno può trovare, ahimè, di tutto. Sì, recentemente nel campo della pedopornografia hanno trovato tonnellate materiali, ma esistono anche cose di più ampio raggio, che non sia soltanto l'aspetto patologico e criminale, cioè informazioni legate alle aziende, alla sicurezza dello Stato. Sì, no, esistono, certamente queste esistono, noi ovviamente non ne siamo a conoscenza, però ci sono anche delle offerte di vendita di queste informazioni, tra l'altro a costi anche modesti, che vanno dalle credenziali di carte di credito, che possono andare dai 4, 5 ai 20 euro, o alla disponibilità a fare, diciamo, azioni criminali per cifre molto modeste. In realtà qui il problema è che... Quindi le credenziali e le carte di credito sono in vendita? No, glielo chiedo, forse lei può rispondermi. Una mia collega le è stata rubata la carta di credito, il bancomat, pochi giorni fa. A tempo che lei facesse la denuncia, già avevano incassato in varie banche le cifre massime possibili. Esiste il PIN di un bancomat, può essere facilmente recuperato se uno conosce il sistema. Sì, purtroppo, diciamo, c'è questo aspetto di vendita. C'è un aspetto pure che è emerso prima e che richiamo, che è il problema di avere delle persone, come dire, degli insider, che quindi già possono avere accesso e così via, ma l'altro aspetto è che le opportunità, stando dietro uno schermo, e anche la parte che noi chiamiamo di razionalizzazione, cioè la giustificazione che si dà a una persona per diciamo, ritenersi comunque una persona rispettabile, ma al tempo stesso fare qualcosa di criminale, sono cambiate perché le opportunità sono più accessibili, i rischi sono minori e quindi ci sono più doppi lavoristi nel campo della spectre fai da te, qualcosa del genere. Mario Caligiuri, per quello che riguarda il tuo settore più specifico del master presso l'Università della Calabria, esistono delle novità, come sta dicendo appunto il tuo collega, nel campo più specifico, diciamo, dell'intelligence legata alla sicurezza del paese o dei corsi di aggiornamento di chi già lavora nelle forze dell'ordine, ad esempio? Ovviamente ci sono sempre degli aggiornamenti che riguardano le nuove tecnologie e i metodi di raccolta delle informazioni, perché come è noto l'intelligence è un metodo di trattazione delle informazioni, non è una brutta parola, quindi bisogna nel diluvio delle informazioni andare a raccogliere quelle che gli americani chiamano il relevant information, le informazioni rilevanti, per cui è importante, decisivo, integrare nel diluvio delle fonti aperte, perché oggi la maggior parte delle informazioni non sono segrete e non si possono mantenere segrete, e basta vedere quello che succede con con Wikileaks, quello che succede con la desecretazione degli atti della CIA e degli altri servizi segreti. Wikileaks è diventato il collettore di tante persone che per un principio di infedeltà alle loro istituzioni e alle loro aziende gli hanno mandato tonnellate di materiali di cui loro potevano avere comunque visione e disponibilità. Alla fine è questo stato. Certo, però tieni conto che qual è il discorso? Il discorso è che oggi il concetto di intelligence io lo legherei essenzialmente alla base della democrazia. Oggi i cittadini, per esercitare in maniera reale, non in maniera virtuale, l'esercizio democratico, devono essere correttamente e pienamente informati. Dall'altro canto, chi dirige deve assumere, deve avere il tempo, la possibilità e la curiosità di fornire a se stesso delle informazioni adeguate, se no altrimenti la democrazia, se non ha cittadini consapevoli da un lato e delle elite responsabili dall'altro, è un gufo vuoto. Quindi è fondamentale il concetto dell'informazione. Antonio deve farci una domanda, scusa un attimo. Antonio. Sì, pronto, buongiorno. Questa curiosità, vediamo se i miei ospiti sanno rispondere. Senta, io voglio ricordare una cosa che mi è capitato una volta, un alto ufficiale dei carabinieri, ma era un pranzo di matrimonio, cioè scherzando, si scherzava sul 007, cioè. E lui disse una cosa che mi convinse subito, anche se poi tagliò corto, disse, ma guardate che i veri agenti segreti vengono dalle parti nostre, da ufficiali di carabinieri e di polizia. E questo mi convinse, perché i veri agenti segreti sono persone comunque che sono abituati ad una lotta armata e certamente non si va. Quello che io aggiungo e che mi ha colpito pure è che ogni volta, certo raramente, che qualche giornale ha accennato alla morte accidentale, dicevano loro, di persone che venivano dette però che fossero agenti segreti, non so, uno si era impiccato addirittura a livello del bidet, si figuri un poco, e un altro, questo mi risulta, cioè, si è si aveva fermato di colpo la macchina e si era buttato dalla tangenziale. Quindi lei dice che esiste, una, esiste la, la classica guerra tra spie, di cui naturalmente l'informazione ufficiale non può dare, non può dare contezza. Il Comitato per la Sicurezza di Stato, o Kamitiet Gasudars Vietnoi Biesa Pasnasti, è stato per quasi 40 anni il principale servizio segreto sovietico. Dal 1954 fino al 1991, anno del crollo dell'Unione Sovietica, il KGB ha svolto un ruolo molto importante nelle vicende politiche internazionali. Senza il suo supporto, il comunismo russo avrebbe avuto vita ben più breve. L'Unione Sovietica è sopravvissuta così a lungo grazie al KGB, che ha soffocato ogni forma di dissenso ed opposizione all'interno dello Stato comunista e in tutti i paesi dell'Europa. Questo è un documentario che ci parla del tempo in cui i servizi segreti erano fondamentali nel sostenere l'aspetto appunto non noto a tutti della guerra fredda. Grandi blocchi si contrapponevano e si contrapponevano o gonfiando i muscoli o attraverso le dichiarazioni ufficiali, ma moltissimo, tantissimo attraverso appunto i servizi segreti, che a volte erano molto permeabili. E il doppio gioco, il triplo gioco, il quadruplo gioco, il quintuplice gioco, ne è piena tutta la trattatistica romanzesca sulle spie. Ma oggi stiamo analizzando una situazione molto più concreta, più reale. Abbiamo sentito due docenti, due master in intelligence, l'uno quello della Facoltà della Sapienza di Roma, più legato diciamo agli aspetti della sicurezza aziendale, l'altro quello della Calabria, gestito da Mario Caligiuri, più legato nel senso reale, cioè dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per veri agenti segreti, agenti che si muovono nei campi delle forze dell'ordine, quindi sono, come diceva appunto Mario Caligiuri, anche tutori della democrazia. Poi c'è la domanda del nostro ascoltatore che ascoltando discorsi privati di suoi amici viene fuori che poi esiste ancora questa idea molto, molto romanzesca, ma anche molto, molto plausibile, che la guerra da spie non sia finita, la guerra tra spie continui su altri piani, per altri interessi, per altri centri di potere, e ne facciano parte persone che poi ufficialmente hanno dei ruoli nelle forze dell'ordine. E molte volte accade, come hanno detto al nostro ascoltatore, che ci siano notizie sui giornali di cose molto singolari, si trova improvvisamente l'ufficiale dei carabinieri, adesso non so se questo è il caso, impiccato al bidet, o l'altro che stranamente muore in un incidente d'auto di cui non si sanno le dinamiche reali e concrete. Ecco, tutto questo ci fa pensare che esista ancora comunque una vasta rete di attenzione e di controllo a quelle che sono appunto le fonti aperte, cioè quello che noi leggiamo sui giornali, quello che ci piace pensare che sia realmente accaduto sui giornali, quello che gira nel mondo della rete, variegato, molteplice, ambiguo, quanto vuoi. Di questo ha scritto un libro interessante Aldo Giannulli, che è un giornalista, ha scritto appunto il libro Come i servizi segreti usano i media, con quali tecniche l'intelligence influenza interpreta l'informazione, come si possono utilizzare anche per leggere delle notizie scritte nascoste fra le righe, per l'editore Ponte alle Grazie. Lo abbiamo al telefono. Aldo Giannulli, buongiorno. Buongiorno. Sai, risponde innanzitutto al nostro, alla curiosità del nostro ascoltatore, esistono realmente questi casi di eliminazione in guerra tra spie che i giornali in qualche maniera devono nascondere o danno soltanto come messaggio che solo chi sa leggere legge? Allora, intanto una precisazione. L'agente del Sismi, Ferraro, che si suicidò, non si suicidò impiccandosi al bidet, bensì al termosifone. E si parlò di impiccagione alla condè, che è una tecnica un po' particolare. Che però nei manuali di medicina legale è contemplata. Sì, ma molto teorica. Quando c'è proprio una volontà di suicidio vera, uno suicida spingendo coi piedi contro il muro e strangolandosi. Più che altro tirando, strattonando fortemente il collo, quello è lasciandosi cadere in modo da provocare la frattura all'altezza del collo, insomma, della vertebra. Per cui, però, diciamo, è un'ipotesi molto teorica. Le guerre fra spie ci sono sempre state, ci sono stati un sacco di episodi di questo genere, penso per esempio ai dissidenti sovietici eliminati dal servizio segreto russo, che peraltro non era proprio così onnipotente come ho sentito poco fa. Cioè, era un vecchio documentario che abbiamo preso su YouTube, certo. Sì, ma ecco, non era proprio così, cioè, anche i servizi non sono così onnipotenti come una certa leggenda vorrebbe. No, quindi assassini ce ne sono sempre stati, però attenzione, è più facile che in casi del genere ci sia una guerra interna al servizio per cui quello che fa lo scherzo è un collega, che non un servizio segreto opposto. Il servizio segreto opposto non tende a uccidere la spia avversaria a meno che non sia proprio necessario. Una volta identificata, tende a tenerla lì dove è, perché una spia identificata è una spia bruciata, anzi, addirittura la si può utilizzare volontariamente per far passare notizie false e disorientare l'altro servizio. Quindi il servizio nemico ricorre all'uccisione della spia avversaria solo in circostanze eccezionali. È molto più facile invece il caso, e ci sono episodi del genere in Francia, negli Stati Uniti, chi non ricorda il film I tre giorni del Condor? Certo. Quando c'è un omicidio del genere, la cosa più probabile è che il marcio sia all'interno. Episodi più vicini a noi, che ne possono essere citati, che non sono ancora entrati, diciamo, nella mitologia di un film o di un racconto romanzato, in cui si legge nei giornali, si capisce che dietro era qualcosa che riguardava le azioni che non si possono sempre raccontare. Ecco. Beh, un momento, non si possono sempre raccontare, anche perché spesso non hai gli elementi per raccontarlo. Certo, per quello, sì. Non puoi basarlo sul sospetto. Sì, il problema è che il sospetto ce l'hai, però, per esempio, in tutte le vicende medio orientali sono stati diversi agenti nostri che hanno fatto una fine piuttosto discutibile. Però guardi che ancora oggi noi non abbiamo capito che cosa è successo. Come diceva Pasolini, io so se solo avessi le prove, ma se non ha le prove. Ho capito, però se non hai le prove sai, hai dei dubbi. Entriamo nel romanzo che diventa realtà, ma è un'altra cosa. No, ma intendiamoci, spesso il sentore di verità è così forte che è decisamente improbabile poi che le cose siano andate diversamente, per cui lo capisci. Però il sentore di verità può andar bene per formulare un'ipotesi, per pensare a uno scenario, ma non costituisce conoscenza certa. Ma c'è anche un controllo sui mezzi di informazione. Molte volte la realtà che esce sui giornali, non voglio naturalmente dire che ci siano giornalisti in malafede, ma arrivano delle fonti certificate e tutto, che sono fonti però in qualche maniera organizzate in modo che la verità che esce, la verità che tuteli la segretezza o la non conoscenza su certe operazioni. Io non so, mi viene in mente quando vengono rapiti dei personaggi che si occupano particolari mondi di beneficenza, di tutela, e si capisce che dietro c'è qualcosa, però nessuno lo può scrivere, nessuno ha le prove. Certo, però ecco, su questo capiamoci. Io non amo affatto i servizi segreti e penso che occorrerebbe ripensare molto fortemente a questo modo di proteggere la sicurezza dello Stato. Però detto questo, fin quando ci sono, fin quando esistono e funzionano in quel modo, non puoi pensare che si può diversamente. Ti lascio perché la sigla ci porta via.